Lettere a Radio 24 con la collaborazione di Luca Cremonese. È innegabile che il numero di insegnanti della scuola italiana sia di molto superiore per alunno a quelli delle scuole del resto d'Europa. Vorrei però far notare che se si prescinde dai singoli ordinamenti scolastici, il confronto tra le varie nazioni sul numero degli insegnanti pro alunno è quantomeno fuorviante. Se per esempio l'ordinamento di un certo stato non contempla le scuole tecniche tra i 14 e i 18 anni, è naturale che possa fare a meno di un bel po' di insegnanti. Si vada a vedere, per esempio, in una prima ragioneria quanti docenti occorrono. Lettere, prima lingua, seconda lingua, matematica e fisica, ragioneria, computisteria, dattilografia, diritto ed economia, geografia economica, educazione fisica e religione. Se non ho dimenticato nessuno, si tratta di 11 insegnanti. Se nello stato che ci serve per il confronto non c'è ragioneria per quell'intervallo di età degli scolari, ecco che bastano 4 insegnanti al posto dei nostri 11. Faccio inoltre notare che noi annoveriamo tra gli insegnanti anche quelli di sostegno e di religione, mentre all'estero questi sono a carico di amministrazioni diverse da quelle della pubblica istruzione. Lettera firmata. Io lavoro in una casa di spedizioni. E sono anni che all'Italia la subiamo. Tutto questo personale che non serve assolutamente a nulla e che, nonostante sia in esubero, non dà neanche un servizio all'utenza, che oltretutto paga profumatamente il loro servizio. A Roma Fiumicino c'è un magazzino dove, per la consegna merce, ci sono solo 2 operai. Ma sapete invece quanti funzionari ci sono? Circa 10 ogni 2 operai. Da dove vengono? Ma dal sindacato, naturalmente. Ore ed ore per poter avere il documento di una spedizione, pochissimi arrivi ma tanti impiegati a gestirli, e giorni per poter avere la merce a disposizione. E in tutto questo, nel frattempo, l'utenza, oltre a pagare il loro stipendio, con parte di soldi pubblici, paga anche il magazzinaggio, dovuto solo ed esclusivamente al loro ritardo. Persone senza un minimo di istruzione e tantomeno di preparazione, che vengono dal sindacato e fanno carriera a scapito delle persone serie e preparate. Ho sentito molte delle lettere alla vostra radio e su una cosa concordo fortemente. Deve fallire. D'altronde avrebbe dovuto fallire molti anni fa. Gli esuberi ci sono da anni e cosa ha fatto all'Italia? Ha continuato ad assumere personale. Ritengo la posizione del governo nei confronti di CAI un atto dovuto agli amici degli amici. Sono profondamente anti-berlusconiana, ma mai come questa volta mi trovo d'accordo con la ferma posizione assunta dal governo. D'altronde, le colpe sono di tutti, nessuno escluso, e del sistema italiano che ora sta avendo falle in tutti i punti. Quanto al sindacato, lo ritengo la vera rovina italiana. Protegge solo i tesserati di grosse aziende e davvero non è per l'uguaglianza dei lavoratori. Se la mia azienda ha un calo di lavoro, la gente se ne va a casa e non può recriminare con nessuno, ma solo con il fatto di non aver dato abbastanza per supportarla. Agostina. Sono un impiegato che 7 anni fa acquistò azioni all'Italia e che oggi ha perso tutto. Se per fortuna dovesse fallire, almeno potrei dire mal comune mezzo gaudio. Proveranno anche loro cosa vuol dire perdere tutto per colpa di una manica di viziati irresponsabili. Fabio Rimini. Vorrei ricordare che la commedia Alitalia nasce con 3 decreti legge di agosto che sono ancora nel limbo della conversione in legge, ma a vederli bene non hanno oggi più nessun senso. Più in particolare, abolizione delle regole antitrust per permettere la fusione con Air One, superata, evitare la gara pubblica europea ed assegnare gli asset direttamente alla cordata italiana, da escludere, creare la Bad Company per liberare le risorse buone da mettere in vendita, direi a questo punto da contrastare, visto che siamo ancora una repubblica parlamentare, che decada pure il decreto. I contribuenti non dovranno accollarsi 3 milioni di euro di debiti, i creditori, soprattutto banche, andranno come giusto al riparo, in bocca al lupo. Il tribunale fallimentare farà le sue indagini per vedere se ci sono state ipotesi di bancarotta e dalle ceneri potrà rinascere una nuova Alitalia, modello Parmalat. Katia. Martedì, ore 18:30. Domanda. Cosa pensa del 60% dei consensi per Berlusconi? Mi permetto, da assiduo ascoltatore della vostra radio, ricca di rubriche interessanti e obiettive, di dissentire dell'analisi politica fatta non so da chi sull'attuale governo Berlusconi.

Ci sono e purtroppo ci saranno ancora. Ringrazio anche Tiziano e Angelo, ma a tutti e quattro, a tutti gli ascoltatori, dico, per cortesia, evitatevi l'inutile fatica di arruolarmi da una parte o dall'altra. 2 anni fa Berlusconi mi indicò per nome e cognome come nemico del governo di centrodestra perché da questa radio li attaccavo tutte le mattine. 1 anno fa Prodi pose fine alla mensile intervista Radio 24, una poltrona per due, ricordate? Che fu un tentativo di dare una comunicazione all'americana tra paese e istituzioni perché era stizzito da un furbetto del quartierino che riguardava anche lui. Intervista, tra l'altro, questa che ho proposto anche a Silvio Berlusconi dopo il suo ritorno a Palazzo Chigi e alla quale proposta non ha mai risposto. Lo dico una volta per tutte, spero l'ultima, in questo mestiere ho fatto sempre una parte sola. Ho passato una vita a fare il cane da guardia al potere, qualunque esso fosse, di centrosinistra, di centro o di centrodestra. Grazie a tutti. Caro direttore, mi sorprendo sempre più di come nessun media si stia occupando di spiegare cosa realmente c'è dietro la crisi finanziaria di questi giorni. Nessuno che spieghi che la bolla immobiliare è stata soltanto la scintilla, la goccia che ha fatto traboccare un vaso ormai stracolmo. Da decenni ormai abbiamo defraudato il mercato dalla possibilità di controllare la moneta e abbiamo ceduto questo potere alle banche centrali, organismi privati, ma che agiscono per conto dei governi. La moneta, che dovrebbe rappresentare il credito o debito a seconda dei punti di vista, circolante, e che deve la sua ragione di esistenza solamente come strumento più comodo del baratto, ha sostituito la reale ricchezza data dalla proprietà, oro, immobili, eccetera. Le banche centrali hanno stampato moneta dal nulla, inflazionando e creando una finanza che poteva reggersi solo se ogni debito veniva ricontrattato all'infinito. Il castello di carte ora sta venendo giù. Si calcola che la valuta che circola per il mondo ormai sia oltre 100 volte la ricchezza reale che essa pretende di rappresentare. Stiamo giocando tutti a Monopoli, con la differenza che abbiamo dato il permesso al banco di stampare tutta la moneta che vuole e di giocare con noi al tempo stesso. Non è difficile comprendere come questo non possa durare per sempre. Scommetto che i grandi finanzieri stanno facendo man bassa delle ricchezze reali. Terreni, oro, argento e altri metalli. Ogni tanto l'oro, da sempre metro delle crisi economiche, se la borsa va giù, l'oro va su, ogni tanto ha delle impennate e il giorno dopo qualche banca centrale inietta valuta, uguale carta straccia sul mercato. L'oro scende ancora per qualche giorno e probabilmente è giusto il tempo necessario affinché gli stessi di cui sopra comprino oro, parlo di oro fisico, reale, lingotti, e poi torna a salire. Ormai ci siamo, caro direttore. Qui non si tratta di inserire qualche centinaio di milioni di dollari sul mercato. Ormai la cifra da inserire, perché il giochetto vada avanti, è enorme. Parliamo di migliaia di miliardi di dollari, che non potranno far altro che far collassare il dollaro, e a catena le altre monete del mondo occidentale. La cosa che mi fa più rabbia è che diranno che è colpa del mercato, mentre il mercato non c'entra nulla. Il nodo di tutto è la produzione pubblica di moneta, che ha drogato un mercato a favore dei soliti noti per decenni e decenni. Io spero di sbagliarmi, ma secondo me ci siamo. Questo sarà un altro 29, se possibile peggiore. Marcello. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it o agli indirizzi dei singoli programmi. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.